cerchi. Ora è perfetto e sicuro per te, ma non so quello che vuoi. Eccomi qui, sono quel che vedi. So then.